Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Varzi l'attesa per l'esito dell'incontro sul piano di MSC per lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. I rappresentanti dei lavoratori chiedono dettagli più precisi sui tempi di rioccupazione dei 300 impiegati nel sito e sui salari. L'annuncio del governo sulla fine degli sconti in fattura per tutti i bonus edilizi ed energetici è arrivato proprio nel giorno in cui la regione aveva incontrato le categorie per aggiornarle in merito alle stime sui crediti incagliati in Friuli Venezia Giulia, ma non ci saranno conseguenze dirette. Illustrato dal Comune di Trieste l'avvio, il cronoprogramma dei lavori delle opere pubbliche previste nella risiera di San Sabba. Esiste un legame fra psichiatria, eugenetica e Shoah, se ne parla in un convegno organizzato dal Museo della Comunità Ebraica di Trieste che è in corso fino a questa sera al Teatrino Basaglia nel Parco di San Giovanni. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, si appresta a celebrare la sua ultima Pasqua alla guida spirituale della Arcidiocesi friulana. Il 5 maggio l'ingresso del nuovo arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba. Aperto il nuovo bando per la richiesta di fondi da destinare ai piccoli progetti nell'ambito Go 2025 Capitale della Cultura. La scadenza per presentare le domande è fissata al 14 maggio. Le 12:31 minuti e 30 secondi in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Beaz e da Maria Spezia, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 27 marzo. In apertura dunque la delicata avvertenza Varzila. C'è molta attesa per l'esito del nuovo incontro romano al Ministero delle Imprese del Made in Italy sul piano di MSC per lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Sono presenti anche i rappresentanti delle segreterie nazionali dei maggiori sindacati. I rappresentanti dei lavoratori chiedono dettagli maggiori sui tempi di rioccupazione dei 300 impiegati nel sito e anche sui salari. Al parlamentino del Ministero delle Imprese del Made in Italy la ripresa dei lavori dell'accordo di programma sulla reindustrializzazione del sito produttivo ormai ex Varzila. Nell'ultimo incontro ministeriale la presentazione ufficiale del progetto di MSC per la creazione di un impianto di produzione di vagoni ferroviari per il trasporto merci. L'obiettivo del colosso della logistica è quello di produrre 1000 vagoni l'anno, di riassorbire tutti i lavoratori e partire con la produzione a pieno regime entro massimo 36 mesi. Un progetto accolto con grande favore dalle istituzioni nazionali e regionali, mentre sul fronte sindacale è rimasta la cautela. FIM, FIOM e WILM, nell'attesa del piano industriale da parte di MSC, che dovrà confermare gli impegni produttivi e occupazionali dichiarati al tavolo, sperano di ottenere risposte anche sui contenuti contrattuali e salariali, compresi i tempi di reimpiego di tutti i 300 lavoratori. Aspetti determinanti per la valutazione complessiva della proposta MSC era stato detto a margine della presentazione del progetto. Al tavolo i rappresentanti nazionali delle sigle sindacali. Non partecipa più Ansaldo Energia, che si è sfilato la scorsa settimana. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca riguarda fatti commessi tra il 2010 e il 2012, una condanna per peculato, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trieste, per la quale oggi l'ex consigliere regionale della Lega, Ugo De Matti, è stato arrestato dai carabinieri di Trieste e condotto nel carcere di Udine. De Matti è stato presidente del Collegio dei Revisori di San Giovanni al Natisone dal 1995 al 2001 e membro del Collegio dei Revisori di Manzano dal 2000-2006. Durante la sua carriera politica è stato capogruppo Lega Nord nel Consiglio Comunale di Manzano. La Corte di Cassazione ha invece annullato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva condannato l'ex consigliere regionale della Lega Federico Razzini a 1 anno e mezzo con peculato per l'inchiesta sui rimborsi contestati ai consiglieri regionali tra il 2010 e il 2013. Secondo la Corte Suprema, che richiama altre sentenze, non c'è il reato di peculato. La condanna era stata pronunciata 1 anno e mezzo fa e il procedimento tornerà ora in Corte d'Appello. Nell'ultimo report di sostenibilità pubblicato dal gruppo Electrolux risulta che i gas ad alto potenziale di riscaldamento globale sono stati eliminati dal 97% dei prodotti con refrigeranti e sostituiti con gas a basso potenziale. I prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e idrico hanno rappresentato il 29% delle unità totali vendute dal gruppo nel 2023 e il 38% del profitto lordo. Il nuovo obiettivo, è detto in una nota di Electrolux, è ora quello di ridurre le emissioni di carbonio dirette e indirette derivanti dalle proprie attività industriali e dell'85% le emissioni assolute di carbonio derivanti dalla fase di utilizzo dei prodotti venduti, dai materiali, dal trasporto dei prodotti e dai viaggi di lavoro tra il 2021 e il 2030. Un obiettivo che è in linea con l'accordo di Parigi, che mira a limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi in questo secolo per evitare gli impatti più gravi del cambiamento climatico. Passiamo all'annuncio del governo sulla fine degli sconti in fattura per tutti i bonus edilizi ed energetici, che è arrivato proprio nel giorno in cui la regione aveva incontrato le categorie per aggiornarle in merito alle stime sui crediti incagliati in Friuli Venezia Giulia, ma non ci saranno conseguenze dirette in questo senso. L'annuncio del governo dello stop allo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi ed energetici non avrà effetti sul patto tra Regione e Intesa San Paolo per recuperare 75 milioni di euro di crediti fiscali incagliati. L'accordo prevedeva l'acquisto di crediti già nei cassetti fiscali delle imprese, mentre il nuovo decreto legge dovrebbe intervenire sui crediti futuri e sulle eccezioni laddove era ancora presente lo sconto in fattura. Continueremo questa attività di sollecitazione dei grandi contribuenti regionali, afferma l'assessore alle finanze Barbara Zilli, affinché possano a loro volta acquistare crediti dal sistema bancario e consentire, con un'operazione sociale, di liberare liquidità a vantaggio di imprese e cittadini di questa regione, le sue parole. Proprio ieri la Regione ha chiesto alle categorie un aggiornamento delle stime sui crediti incagliati. Confartigianato Friuli Venezia Giulia ipotizza restino ancora 80 milioni, in diminuzione rispetto ai 280 milioni calcolati a fine 2023. Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia. Gran parte di questi crediti sono in mano agli impiantisti per lavori di piccola entità, cambio della caldaia, aggiornamenti. Non abbiamo contezza di che cosa si sia scritto su questo decreto, speriamo che alla fine non abbiano frapposto ulteriori difficoltà, perché veramente questo è un percorso di guerra. Emanuela Gorgone, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio, ANACI, di Udine, teme che la misura possa riguardare anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, una delle eccezioni che ancora prevedeva lo sconto in fattura, e quindi l'installazione di montascale, ascensori e rampe. Arriverà il blocco per gli enti del terzo settore che potevano ancora usufruirne fino al 2025. Il presidente regionale dei costruttori, ANCE, Marco Bertuzzo, auspica che non venga intaccata l'eccezione che riguardava chi, alla data del 17 febbraio 2023, aveva presentato un titolo in comune anche senza un cantiere avviato. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Centro Culturale Villa Dora di San Giorgio di Nogaro per tutta la giornata è oggi in programma il Recruiting Day organizzato dalla Regione, a cui parteciperanno 4 importanti aziende nazionali alla ricerca complessivamente di oltre 200 addetti. L'appuntamento è dedicato a persone con meno di 35 anni e alla formula dello Speed Date, un colloquio veloce di 5 minuti scandito da una campanella con ciascuna delle aziende coinvolte. È stato illustrato questa mattina dal Comune di Trieste l'avvio e il cronoprogramma dei lavori delle opere pubbliche previste nella risiera di San Sabba. Un ascensore per rendere gli spazi accessibili a tutti e un allargamento del varco di uscita sono alcuni degli interventi previsti fra i lavori alla risiera di San Sabba a Trieste, che hanno preso il via il 4 marzo e dovrebbero concludersi alla fine di ottobre. L'opera, illustrata dall'assessore alle politiche del patrimonio immobiliare Elisa Lodi, del costo complessivo di 540.000 euro, è finanziata con fondi ministeriali e prevede un insieme di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il restauro e la sistemazione di spazi funzionali e il miglioramento dell'accoglienza dei visitatori. L'intervento prioritario è quello che riguarda la realizzazione dell'ascensore, che garantirà la fruibilità della sala conferenze e della sala di lettura. Legati ai nuovi criteri di accessibilità sono anche le sistemazioni esterne sulla via Rio Primario, i diversi interventi di restauro degli ambienti delle attività museali e il riutilizzo degli spazi del secondo livello nella parte soprastante gli uffici. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri a Trieste un equipaggio della squadra volante della Questura, in collaborazione con un gruppo cinofili antidroga dei militari della Guardia di Finanza, ha svolto controlli presso alcuni istituti scolastici per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti. Tra le scuole controllate figurano il liceo scientifico Oberdan e l'istituto Da Vinci di via Veronese. Altri controlli sono stati svolti al giardino pubblico Tomasini, a Campo San Giacomo e al giardino Basevi. Ulteriori verifiche programmate per mesi coinvolgono poi il Liceo Artistico Nordio, l'Istituto Carli, l'Istituto Nautico Galvani e gli istituti tecnici Volta e dell'Edda Fabiani. Oggi presso la base aerea di Rivolto si celebrano i 101 anni della fondazione dell'aeronautica militare. Diverse le iniziative organizzate per l'occasione dal reparto, quali la cerimonia dell'alzabandiera solenne, una mostra statica di velivoli storici e del sistema radar Sirius, un percorso fotografico su pannelli illustrativi raffiguranti la storia del secondo stormo, nonché l'attività dimostrativa del servizio di falconeria. L'evento, presieduto dal comandante del secondo stormo, colonnello Paolo Rubino, vede la partecipazione di autorità civili e militari locali, di alcune rappresentanze di studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Udine e provincia e soci dell'associazione Arma Aeronautica. Esiste un legame fra psichiatria e eugenetica e Shoah, se ne parla in un convegno organizzato dal Museo della Comunità Ebraica di Trieste che è in corso fino a questa sera al Teatrino Basaglia nel Parco di San Giovanni. Esattamente 80 anni fa, il 28 marzo 1944, le squadre paramilitari del partito nazista, le famigerate SS, bussavano alle porte dei luoghi di cura di Trieste per prelevare i ricoverati di razza ebraica. Gli elenchi con i nomi erano stati loro forniti nei giorni precedenti dagli stessi ospedali. Furono così arrestate 24 persone allo psichiatrico provinciale, 13 all'ospedale dei cronici e 10 all'ospedale maggiore. Tutti questi pazienti, tra cui 6 ultraottantenni, vennero portati alla risiera di San Sabba per essere deportati nei lager. Nessuno ha fatto ritorno a casa. Fa luce su questi fatti il convegno La cura tradita, organizzato dal Museo della Comunità Ebraica di Trieste, Carlo e Vera Wagner, con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Asugi e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Trieste. In sala studenti delle scuole superiori universitarie, operatori sanitari e sociali. Ad aprire i lavori lo psichiatra tedesco Michael von Cranach e le sorelle Andra e Tati Bucci si commuovono ancora una volta nel raccontare la loro storia di deportazione da bambine a Birkenau, destinate agli esperimenti di Joseph Mengele, scambiate per gemelle. Viaggiarono sullo stesso convoglio partito dal Silos di Trieste il 29 marzo del 44, su cui furono caricati i malati arrestati il giorno prima. Come sottolineato recentemente dalla rivista scientifica Lancet, studiare la storia della medicina e del nazismo ci aiuta a capire le questioni odierne di equità sanitaria, assistenza ai vulnerabili, ai diritti del paziente e la promozione della sanità pubblica. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà un ponte pasquale prevalentemente caratterizzato da traffico sostenuto lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste. È previsto un aumento dei flussi di transito a partire dalla mattinata di domani, giovedì, sull'autostrada A4 in direzione Trieste e dal pomeriggio anche lungo la direttrice per Venezia. Questo per l'effetto dell'inizio delle vacanze pasquali, secondo il calendario scolastico, per i primi rientri verso il centro-est Europa dei lavoratori stranieri e per il mini esodo dei turisti verso le grandi città del nord Italia. I flussi si manterranno sostenuti anche nell'intera giornata di venerdì e nel pomeriggio di sabato, soprattutto in direzione Trieste. Nel giorno di Pasqua ci sarà una drastica diminuzione del traffico che riprenderà in particolare a partire dal pomeriggio di lunedì 1 aprile. La giornata più critica dell'intero ponte, quindi da Bollino Rosso, sarà martedì 2 aprile, quando dal pomeriggio, oltre al rientro dei turisti per la ripresa delle scuole, torneranno a circolare i mezzi pesanti. Occhi puntati in particolare sulla A4 lungo la direttrice Trieste-Venezia. Saranno possibili code o rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste-Lisert e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia nei pressi di Porto Gruaro. Code e rallentamenti in prossimità del cantiere saranno possibili anche nella mattinata di mercoledì 3 per l'arrivo di altri auto articolati dal centro est Europa, sempre in direzione Venezia. Ed ora uno sguardo al tempo, il cielo è coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 14 gradi e 5 decimi, a Gorizia 13 gradi, a Gundine 11 gradi e 5 decimi, a Pordenone 11 gradi, a Tolmezzo 7 gradi e mezzo, a Tervisio 6 gradi e 5 decimi, a Fondi di Sopra, a Piancavallo e Sappada da 5 gradi, sul Monte Lussari 2 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 2 gradi. passando la costa. A Lignano ci sono 13 gradi, a Grado 14. Un'allerta meteo idrogeologica di colore giallo è stata diramata dalla Protezione Civile regionale e sarà valida per tutta la giornata di oggi per piogge intense, anche temporalesche. E ora le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per le prossime ore: cielo coperto con piogge in genere moderate, intermittenti, su bassa pianura e costa, dove soffierà scirocco da moderato a sostenuto in serata libeccio, con possibili mareggiate e acqua alta. Sulla pianura e sulla zona montana piogge intense o molto intense, specie sull'alta pianura, sulle prealpi e in Carnia. Quota neve intorno a 2000 metri circa, in calo in serata fino a 1400 metri circa, possibili temporali. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzuccato, si appresta a celebrare la sua ultima Pasqua alla guida spirituale dell'arcidiocesi friulana. Il 5 maggio l'ingresso del nuovo arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba. Monsignor Mazzuccato lascia dopo 15 anni con il Friuli nel cuore, ha detto. Dopo 15 anni a capo dell'arcidiocesi di Udine, 118esimo successore di Sant'Ermacora, per Monsignor Andrea Bruno Mazzuccato questa sarà l'ultima Pasqua friulana. A giorni si insedierà il nuovo arcivescovo Riccardo Lamba. A Monsignor Mazzuccato abbiamo chiesto un bilancio, anche spirituale, della sua esperienza udinese. C'è una spiritualità mia personale che si è molto arricchita attraverso tutti i passaggi. Mi pare anche che abbiamo anche l'aumento di sacerdoti giovani, una buona attività, ecco, qui ragazzi, qui giovani. Certo, bisogna continuare in stile missionario, cioè le persone hanno bisogno di essere aiutate a ripiantare l'esperienza della fede nel profondo del loro animo. Un augurio che fa la gente del Friuli? L'augurio è, da una parte, come ho appena detto, ecco, riscoprire nel tempo attuale le loro antiche radici di fede di Aquileia, che qui sono molto sentite, insomma, ecco, e quindi andare avanti. E un'altra cosa è quello che conservare la propria identità, ma proprio come popolo solidale che guarda al futuro e però mantiene le radici passate. Resterà in Friuli? No, non resto in Friuli, torno a Treviso, ho spiegato il motivo della mia scelta, è perché penso che per rispetto a chi arriva e alla sua opera, meglio lasciare il campo libero. Sarò raggiungibile a chiunque vuole, però con un po' di distanza. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Una catena di vulcani sottomarini è stata scoperta nei mari remoti della Terra Vittoria settentrionale in Antartide grazie alle indagini geologiche e geofisiche condotte a bordo della nave rompighiaccio italiana Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS nell'ambito del progetto internazionale finanziato dal Programma Nazionale di Ricerca in Antartide coordinato dall'Università di Genova. La catena di vulcani si trova al largo della remota costa di Pennell, in una zona dove le correnti dell'oceano meridionale si incontrano con le acque del mare di Ross. Presenta una lunghezza di circa 50 km, una larghezza massima di 15 e le sue cime, pur elevandosi di oltre 1500 metri rispetto al fondo oceanico circostante, restano nascoste sotto il mare. Il punto più elevato del complesso vulcanico è a circa 600 metri di profondità. I primi indizi di questa scoperta erano emersi durante la 38esima spedizione italiana effettuata nel febbraio dell'anno scorso e sono stati poi confermati nel corso della 39esima campagna, a cui ha preso parte appunto la nave Laura Bassi, che si conclusa a inizio marzo. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro fra l'associazione di consumatori Adiconsum e le altre associazioni di consumatori con Enel Energia in merito alla problematica delle modifiche tariffarie avvenute a partire da fine 2023, in particolare nel settore gas, segnalate dai consumatori. Sottolineata la necessità di rivedere le modalità di comunicazione al cliente in merito alle modifiche tariffarie in modo indipendente da quanto previsto dal codice di condotta commerciale per dare la possibilità al consumatore di conoscere e scegliere in modo consapevole. E rispetto al problema della cosiddetta lievitazione delle tariffe proposte, assolutamente non in linea con l'andamento dei prezzi medi riscontrati nel 2023, Adiconsum ha richiesto una metodologia per renderle più adeguate a quelle attuali, con particolare attenzione alla gestione delle fatture già emesse. L'azienda ha poi confermato la disponibilità a rateizzare le fatture emesse fino a 10 rate senza interessi, prestando attenzione alle varie casistiche e nel contempo a rivedere la tariffa applicata con quella migliore disponibile. È stato lanciato il nuovo bando per la richiesta di fondi da destinare ai piccoli progetti nell'ambito di Go 2025 Capitale della Cultura. La scadenza per presentare le domande è fissata il 14 maggio. La dotazione finanziaria del secondo bando Go 2025 è di 1.455.000 euro che andranno a piccoli progetti da 30.000 a 150.000 euro ciascuno. Il primo bando del 2023 aveva avuto un totale di fondi europei e regionali di 7.669.000 euro e ha finanziato ben 44 progetti, in prevalenza artistico-culturali ma anche storici, turistici ed enogastronomici. Sentiamo Romina Coccina, direttore generale del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. Ci siamo voluti focalizzare su alcune tematiche che per noi sono importanti, ma che non sono state ancora particolarmente oggetto di interesse. Tutto quello che riguarda i giovani, poi lo sport, anche perché anche sport è cultura. E poi temi sempre importanti come comunque l'inclusione sociale, il tema del verde, mobilità sostenibile. Ricordiamo sempre che l'area programma riguarda un'area un po' più vasta rispetto solo il goriziano. Andiamo dalla provincia di Venezia fino a Lubiana. Il bando è gestito dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, GECT, che sul proprio sito e su Go 2025 ha predisposto la lista dei documenti necessari per partecipare ed anche il Partner Search, che è la sezione per ricercare dei partners progettuali. Fino ai 50.000 euro, infatti, il proponente può essere uno solo, dai 50 ai 150.000 invece viene richiesta una proposta associata. Abbiamo già in calendario, a brevissimo, delle giornate informative per presentare il bando e dare un po' di informazioni proprio su come prepararsi e come presentare le proposte. Va ricordato inoltre che i fondi non vengono erogati quando il progetto è approvato, ma dopo la sua realizzazione. Quello che noi possiamo fare è un anticipo del 50% per i beneficiari in modo che possano avviare le loro spese. L'anticipo però comporta la richiesta di una fideiussione che deve essere già disponibile alla firma del contratto. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Nelle frazioni di Grizzo e San Leonardo di Montereale Valcellina sono di recente stati organizzati dai carabinieri delle rispettive stazioni due incontri sulle politiche di sicurezza per sensibilizzare e informare la cittadinanza sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio, furti. Sono stati dati consigli e informazioni su come comportarsi per non rimanere vittime di tali episodi, con le modalità d'azione più ricorrenti di ladri e truffatori, indicati piccoli accorgimenti anche per aiutare a mettersi a riparo da questi eventi, nonché per prevenire e contrastare i più comuni tentativi di truffa. L'Università di Trieste, il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, già impegnato in uno studio sul comportamento dei micromammiferi, collaboreranno nel progetto monitoraggio ottimale dei mammiferi, vinto sul bando della National Biodiversity Future Center, uno dei 5 centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al via ad aprile 2024, con conclusione prevista a dicembre 2025, il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare un sistema di monitoraggio dei mammiferi all'interno del parco e zone limitrofe, un'area molto vasta situata nel Friuli Venezia Giulia, al confine con la Slovenia, dalla straordinaria biodiversità e riconosciuta nel 2009 come area protetta transfrontaliera dalla Federazione Europea Europark. Parliamo ora di un appuntamento nell'ambito della grande mostra in corso a Gemona dedicata al presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, che fu assassinato nel 1963. Sono immagini che hanno fatto la storia e immortalare l'attimo in cui Kennedy fu colpito a morte a Dallas il 22 novembre del 1963 fu un certo Abraham Zapruder, cineamatore di origini polacche. Era lì per riprendere una giornata di festa e si trovò a documentare per caso un dramma che cambiò i destini della storia mondiale. A lui è dedicato un documentario di 88 minuti con cui nel 1998 il produttore americano Motil ricostruisce il lungo viaggio di queste immagini attraverso sparizioni, restauri e ricomparse nel corso dei decenni. Immagini viste dapprima nei fotogrammi pubblicati dalla rivista Life e poi in programmi televisivi e film come quello di Oliver Stone. Il documentario sarà proiettato questa sera nell'ambito della rassegna in corso fino al 6 giugno a Gemona, dal titolo Allo specchio dell'era Kennedy. Al cinema sociale dalle 20:30 sarà proposta con i sottotitoli anche Murder Most Fall del 2020, 16 minuti di grande intensità in cui Bob Dylan sintetizza la sua traumatica memoria dell'evento. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport calcio. Simone Pafundi ancora protagonista nel 5-0 con cui la nazionale Under 19 ha liquidato la Georgia, staccando il biglietto per gli europei di categoria. Il fantasista monfalconese ha sbloccato il risultato all'inizio del primo tempo. Un suo cross da calcio d'angolo toccato con la mano da un difensore gli ha consentito di andare sul dischetto. Palla da una parte, portiere dall'altra, 1-0. Tutto facile poi per gli azzurri. Di nuovo in gol con Palestra a metà della frazione su passaggio di Misitano. Alla mezz'ora ancora un tocco illuminante di Pafundi dal via l'azione che porta in gol Zeroli, con gli azzurrini in totale controllo nella ripresa a spazio anche per i gol di Sia e di Maggio. Il campionato europeo si gioca dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, con l'Italia oltre ai padroni di casa ci saranno insieme a Spagna, Francia, Norvegia, Danimarca, Turchia e Ucraina, che si aggiungeranno ai padroni di casa nordirlandesi. Il torneo sarà valido anche per le qualificazioni alla Coppa del Mondo Under 20 in programma nel 2025 in Cina. Per la pallanuoto, nel posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile, le Orchette e la Bardati ospiteranno la SIS Roma. Si giocherà la Bruno Bianchi con inizio alle 20. Gli spettacoli, la regista milanese Serena Sinigaglia porterà in scena al Teatro Verdi di Pordenone, in esclusiva regionale, Le supplici di Euripide. Con la sua regia e un cast tutto al femminile, argomenta l'incapacità dell'uomo di interrompere la follia della guerra e la fragilità delle democrazie antiche e moderne. Un testo politico e civile raramente rappresentato che denuncia la natura violenta dell'uomo che non permette di costruire una società pacifica. Oggi e domani alle 20:30. La Friuli Venezia Giulia Orchestra, diretta dal maestro Filippo Maria Bressan, con il coro giovanile italo-sloveno, diretto dalla maestra Anna Molaro, si esibiranno a Gorizia, nella chiesa di Sant'Ignazio, in composizione di Fauré e Ravel, inizio alle 20:30. Per la 102esima stagione degli Amici della Musica al Palamostre di Udine si esibisce la pianista ucraina Anfisa Bobilova con musiche di Mozart, Chopin, Beethoven e Respighi. Appuntamento alle 19:22. E alle 12:56 minuti si chiude così questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beaz. Collaborazione tecnica di Giampaolo Zucchi, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. È tutto, grazie e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.